Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Siamo nel pieno della settimana della moda a Milano, primo appuntamento della stagione con le collezioni per il prossimo anno. Noi facciamo una scelta controcorrente, dedichiamo il primo dei nostri approfondimenti a So Critical, So Fashion, primo evento in Italia dedicato alla moda critica. Nello spazio su retail e grande distribuzione parliamo invece di parole e nuove tendenze e per il focus sui trend di consumi condivisi quando la collaborazione fa tendenza. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità della settimana. È Marc Jacobs, attuale direttore artistico di Louis Vuitton, il successore di John Galliano alla Maison Dior. La notizia dovrebbe essere ufficializzata nelle prossime settimane. Aumento dei prezzi e calo dei consumi sono le conseguenze dell'aumento dell'IVA secondo Confcommercio, che prevede una riduzione dei consumi dello 0,3-0,5% nel 2012 e contemporaneamente un innalzamento dell'inflazione del 3,1% a settembre con un picco del 3,5% a novembre. Ha aperto a Milano il primo flagship store Pirelli, dalle calzature all'abbigliamento Pizzero, passando per la Formula 1, la nautica, il design, il calendario e le foto storiche. Una curiosità, i camerini sono rivestiti con la tela impermeabile dei materassini da mare prodotti da Pirelli negli anni 60. Svegliarsi una mattina confusa, con un anello di diamanti, un vestito da sposa sul letto e scoprire di essere diventata la signora Clooney. Accade nel divertente spot norvegese che ha fatto il giro della rete. Pubblicizza il fondo di risparmio di una banca. Alcune persone sono fortunate nella vita, dice il claim. Per le altre, risparmiare può essere intelligente. Le chiacchiere da ufficio sulle vacanze appena trascorse potrebbero costare alle aziende italiane fino a 83 milioni di euro. La stima è di lastminute.com, che ha effettuato un'indagine su oltre 10.000 viaggiatori di 9 diversi paesi europei. Solo quinti in classifica, però, gli italiani, che dedicano in media 21 minuti alle chiacchiere sul tema, contro i 26 dei primi, gli irlandesi. La borsa della spesa. La scelta è ardua. Sono talmente diverse. Ti fa ridere? Niente, ecco, solo che quelle due cinture mi sembrano esattamente identiche. Tu pensi che questo non abbia nulla a che vedere con te? Tu apri il tuo armadio e scegli, non lo so, quel maglioncino azzurro infeltrito, per esempio, perché vuoi gridare al mondo che ti prendi troppo sul serio per curarti di cosa ti metti addosso. Ma quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è turchese, non è lapis, è effettivamente ceruleo. E sei anche allegramente inconsapevole del fatto che nel 2002 Oscar De La Renta ha realizzato una collezione di gonne cerulee e poi il ceruleo è rapidamente comparso nelle collezioni di 8 diversi stilisti. Dopodiché è arrivato poco a poco nei grandi magazzini, dove tu evidentemente l'hai pescato nel cesto delle occasioni. Siamo al limite del comico quando penso che tu sia convinta di aver fatto una scelta fuori dalle proposte della moda, quindi in effetti indossi un golfino che è stato selezionato per te dalle persone qui presenti. Già difficile fare scelte fuori dal coro, il diavolo veste Prada, come abbiamo appena sentito, insegna. Eppure gli stilisti, i produttori, i distributori, i promotori di quella che in gergo si chiama moda critica lo fanno. Lo testimonia So Critical, So Fashion, primo evento italiano dedicato alla moda critica, verde, etica e indipendente, che si chiude oggi a Milano, proprio nei giorni della settimana della moda. 3 giorni di performance, workshop, laboratori, incontri e shopping per offrire, leggiamo dalla brochure dell'evento, alternative possibili, libere dalle imposizioni del marketing e del consumismo. La moda critica sta uscendo dalla nicchia, come è successo per il cibo biologico, ci spiega Anna Nenna di Terre di Mezzo, responsabile di So Critical, So Fashion. La moda critica adesso è innanzitutto alla portata di tutti, perché è più diffusa, le realtà che se ne occupano sono numerose ed è più diffusa anche perché cresce la domanda. Il consumatore è attento non più soltanto al cibo, adesso il cibo biologico naturale a chilometro zero è molto cercato, non è più un prodotto di nicchia. Il consumatore vuole anche vestire sentire sano. Però la moda critica, ricordiamolo, anche bella, è una moda di design, è una moda ricercata, molti dei pezzi sono unici, di materiale anche molto ricercato e soprattutto un design studiato. Chi decide di vestire questo tipo di abbigliamento è attento innanzitutto appunto al bello e al confortevole, ma anche a tutto quello che c'è dietro, a un abito di questo tipo, un accessorio di questo tipo, quindi la dignità di chi l'ha prodotto e i filati, le conce, i colori sono vegetali, a chilometro zero, naturali, quindi un consumatore assolutamente attento che anche con l'abito vuole esprimere una caratteristica di sé. E si vuole bene. Tra i 39 espositori ci sono piccole imprese attente all'ambiente, marchi giovani e indipendenti, oppure progetti socialmente responsabili come l'Orlando Furioso, collezione di capi e accessori che nasce come attività di reinserimento sociale. Le artigiane che realizzano la collezione sono infatti donne che soffrono o hanno sofferto di disagio psichico e che con ago e filo, ci dice la responsabile Elena Varini, cercano di cucire anche la loro vita. Noi cerchiamo di recuperare a 360 gradi, per cui non solo il materiale utilizzato, ma anche le persone che comunque hanno avuto nella loro vita o continuano ad avere un disagio che compromette la loro vita stessa. Sono tutti capi fatti su misura, di altissimo livello, utilizziamo anche delle stoffe esclusivamente made in Italy, siamo molto attenti a ciò che acquistiamo. Molti i progetti legati al riuso dei materiali di recupero, come il marchio di bijou Vicolo Paglia Corta, collezioni realizzate con tasti di computer dismessi e mattoncini Lego usati. Tutto è nato per gioco, spiega Katia Bocchi. Abbiamo iniziato proprio per gioco, quello che poi è diventato il nostro lavoro, per fare bijou fatti con i Lego recuperati. Per quanto riguarda i tasti, invece, un giorno abbiamo visto una tastiera in un mercatino, ci siamo passati davanti varie volte, alla fine ci è venuta l'idea e li abbiamo trasformati in anelli e spille, orecchini. Per noi la cosa più bella ancora, anche dopo 3 anni che facciamo questo prodotto, è vedere che la gente davanti alle cose che facciamo sorride. Partiamo dal presupposto che ci sono un sacco di materiali intorno a ognuno di noi che vengono utilizzati solo una volta e poi vengono scartati, oppure che vengono utilizzati e poi dimenticati. Per cui secondo noi è molto importante cercare di dargli una seconda vita. Cambiamo argomento, lo sapete che anche le parole possono anticipare le nuove tendenze? Codice a barre di Luigi Rubinelli. Le parole sono importanti, dice in un suo film il regista Nanni Moretti. E ragione da vendere, perché le parole, se studiate con attenzione, ci raccontano il passato e il futuro. Se poi a studiarle è un istituto di ricerca e un sociologo, le parole raccontano molto di più. Una recente ricerca dell'Istituto Demos di Ilvo Diamanti ha stilato una classifica delle parole del futuro e un'altra delle parole del passato. Vediamo quelle del futuro. In cima ecco internet, energia pulita e, sorprendentemente, solidarietà. Si sa che tra il dichiarare qualcosa ai ricercatori di mercato e al comportarsi in un dato modo, la forbice a volte è molto larga, ma i sociologi registrano questa dichiarazione come un'inversione di tendenza che sembrava stesse già per spegnersi quando 3 anni fa un altro sociologo, Gianpaolo Fabris, fece lo stesso tipo di ricerca. Ecco altre parole del futuro. Giovani, merito e bene comune, partecipazione e unità nazionale, forse salita ai ranghi alti per il 150° dell'Unità d'Italia, ma anche decrescita, termine molto caro a un altro sociologo, Serge Latouche, che recentemente ha rivisto leggermente con occhio più critico e realistico questo termine che ha coniato 3 anni fa e ha diviso la comunità economica e sociale. Fra quelle negative compaiono i partiti e qualche esponente anche illustre, le veline, il federalismo, i matrimoni gay, l'individualismo, l'apparire. Su queste due parole bisogna incrociare i format della comunicazione pubblicitaria che sembrano non accorgersi dei paradigmi di consumo cambiati ormai da tempo e perseverano con una comunicazione da anni 90. Ce ne sono altre, ma chiedete a Demos la ricerca completa perché lo spazio della radio è ridotto proprio per l'importanza delle parole. Essere e avere. What's mine is yours. Quello che è mio è tuo. Di nuovo in studio con Essere e Avere. Quello che abbiamo appena sentito è il titolo di un libro quotatissimo negli Stati Uniti e diventato il vero e proprio manifesto della cosiddetta economia condivisa, la sharing economy. Questo è il tema del nostro focus sui trend e ne parliamo come sempre con la nostra esperta Patrizia Martello di Memetti Club, docente di sociologia dei consumi, analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, un saluto a tutti. Parole d'ordine: condivisione, baratto, prestito, scambio, affitto, usufrutto collettivo, noleggio, tutte pratiche legate al consumo collaborativo, partecipativo, vero e proprio fenomeno del momento che qualche mese fa il Time ha definito una delle 10 idee che cambieranno il mondo. Complici l'austerità dettata dalla crisi e il consumismo esasperato degli anni scorsi che ha riempito le nostre case di oggetti inutili, riscopriamo pratiche antiche, vedi lo swapping, appunto il baratto, ma riattualizzate, potenziate, possiamo dire, dall'uso della rete e dei social network. Patrizia. Stiamo scoprendo che usare è molto più importante di possedere, o comunque ci interessa di più in questo momento. Economia condivisa come gesto micro, come gesto quotidiano, vuol dire molto semplicemente dare un valore alle cose che non si usano più, rimetterle in circolazione, farle usare anche da altri o usare cose che arrivano da altri. Le possibilità, i luoghi, i modi per condividere beni e servizi sono molti e in aumento, potenziati certamente dal web e dalle reti sociali. È tornato appunto per esempio il baratto, che è sì un espediente funzionale ai tempi di crisi che viviamo, ma è anche diventato subito, questo interessante, una pratica di consumo glamour. Pensiamo agli swap fashion party, le feste del baratto, dove si scambiano pezzi dei propri armadi per il gusto di entrare in possesso temporaneo di nuovi per chi li riceve, abiti, borse, scarpe, eccetera, che poi continueranno il viaggio di corpo in corpo, di armadio in armadio. Ma il baratto è in questo momento soprattutto un fenomeno web. È nato recentemente, il fondatore, l'italiano Luca Leoni, Reuse, scritto con due O, si definisce eco store online del baratto asincrono. Lo scambio, cioè, avviene in tempi diversi tra chi offre e chi prende. Niente denaro, ovviamente, ma un sistema di crediti accumulabili con la registrazione. Per esempio, ci sono i primi 5 crediti di benvenuto regalati e poi gli altri attraverso lo scambio. Gli oggetti pubblicati sono geolocalizzati, si può cioè vedere dove si trovano geograficamente. Utilità, risparmio, scambio, sostenibilità, partecipazione allargata sono le parole chiave che compaiono in questo sito e il motore di questa community. Non solo baratto, naturalmente anche prestito, affitto, scambio. Gli usi a scadenza generano una precisa domanda tra gli individui consumatori in questo momento, una domanda di oggetti da usare per il tempo limitato in cui servono. Esempi: l'aspirapolvere, gli utensili, anche automobili, c'è bisogno di una scala, il tuo vicino ne ha una e te la può prestare, hai una bicicletta che prende polvere in garage, la puoi affittare. Questa è la mission di Neighbor Goods, ma non è il solo sito, non è il solo social network di quartiere. Questo è attivo nell'area sud della California e recita: risparmia soldi e denaro, condividi con i tuoi vicini la tua roba. È interessante in questo caso la wish list, cioè la lista di ciò che si cerca da incrociare con l'offerta, e un servizio di instant messaging per comunicare in tempo reale proprio tra vicini di casa. E si può barattare persino una parte della propria vita, quella sociale. Vediamo con che cosa. È il caso di Appartamento Lago. Lago è una nota azienda che produce arredamento di mobili di design, che ha ideato questa interessante formula di living showroom, uno showroom vivo. Un vero appartamento, in sostanza, che i tenant, cioè le persone che ci vivono, condividono con i potenziali clienti, cioè con tutte le persone che, grazie a un fittissimo calendario di eventi, di incontri, entrano in questa casa. È un progetto di marketing sociale evoluto, già in essere a Milano, Bologna, Venezia, Torino, Bergamo, e di fatto è una forma molto innovativa di baratto. Il marchio Lago mette in scena tutto il suo mondo di marca in una casa vera, dialoga dal vivo con le moltissime persone ospiti che vi transitano, e gli inquilini, in cambio di una bellissima casa brandizzata, offrono la condivisione della loro vita vera, quella di lavoro, gli amici e anche il loro stile di vita, il tutto, questo è il dato interessante, all'insegna della massima autenticità, in linea quindi con i valori del marchio, ma anche con i loro progetti personali e professionali. Di tutte queste pratiche si parla da tempo, sono almeno 2 anni che anche noi di Essere Vere analizziamo il fenomeno. Sentite un po' questa clip, tratta da Sex and the City The Movie, il primo film nato dalla serie TV cult. Allora, Louise di St. Louis, mi resta una sola domanda. Ok. Come può una ragazza disoccupata con 3 coinquiline permettersi una patchwork denim bowlie di Louis Vuitton? L'ho affittata. Borsa, in prestito o rubarla? Ma come il noleggio dei DVD? Come posso non saperne niente? Resta con me, ti sistemo io. Dunque, già nel 2008 un film destinato ad un vasto pubblico, non certo un film di nicchia. La novità è che ora tutte insieme queste abitudini, noleggio, baratto, scambio, eccetera, stanno costruendo una vera e propria economia condivisa, partecipata, in pratica un nuovo modello di consumo. È questa la svolta, Patrizia? Stiamo assistendo certamente a un passaggio epocale che si può sintetizzare con uno slogan: dall'usa e getta all'usa e riusa. All'usa e dona, all'usa e scambia, fai usare, rimetti in circolo. Questa nuova economia che dilaga, questo è un dato importante tra i più giovani e tra chi è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, evidentemente si esprime in moltissimi modi e genera fenomeni anche molto diversi, lo dicevamo in apertura, e proprio questa miriade di pratiche quotidiane dimostra come siano in atto cambiamenti profondi e crediamo irreversibili nei comportamenti economici e di consumo. La nuova domanda è: perché acquistare se posso procurarmi quel che mi serve in altro modo, se posso disporne per il tempo in cui mi serve e se grazie alla rete di amici e all'uso dei social network questo scambiare diventa facile, veloce, sicuro. Quindi dal care bike sharing ai gruppi d'acquisto, al noleggio, insomma il consumo diventa davvero collaborativo. Si scambia tutto, le cose ovvie e quelle meno ovvie come vestiti, videogiochi, mobili, libri, ma anche case, anche posti letto come nel caso del sito Airbnb o il couchsurfing, già molto citato, agli uffici, alle connessioni wifi. Questo è il caso di FON, una comunità internazionale che fa condividere la propria connessione internet di casa in cambio dell'accesso ad altri hotspot forniti da altri membri della community, per esempio. Ma poi si scambia tempo con verdure, questo succede a Brooklyn e in altre città, dove chi dà una mano alle varie cooperative dei farmer markets riceve cibi freschi, oppure si scambia ospitalità con lavoro, è la formula che si sta diffondendo per esempio nel mondo del turismo. Si soggiorna per esempio in un agriturismo e in cambio ci si offre per coltivare l'orto, accudire animali, ridipingere pareti, insomma fare quello che ci viene richiesto. E poi si viaggia in cambio di lezioni di inglese, il sito è tour boarding, si alloggia in case private e si insegna inglese agli ospiti. Altro caso interessante, le social room negli ostelli, stanze gratis per le tribù dei backpackers, i giovani turisti zaino in spalla, che in cambio di fotografie, video, software, ma anche contenuti o saperi o competenze, soggiornano gratis. Dal web, dai beni immateriali, dai servizi, al baratto antico, il gesto economico primario. Uno tra i moltissimi appuntamenti istituzionalizzati dedicati al baratto è City Sunday, ovvero la domenica dei semi. È partita da Brighton, è un'iniziativa che sta dilagando in tutto il Regno Unito ed è un baratto funzionale a preservare la biodiversità proprio attraverso lo scambio di sementi ed è uno degli eventi simbolo della rivoluzione orticola in tutte le città del mondo. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Berlino su consumi condivisi e dintorni? Ce lo racconta la nostra Urban Watcher Alessia Zampano. Ciao Alessia. Ciao, un saluto a tutti. Nel quartiere di Kreuzberg, 2 giovani hanno ideato un'operazione di guerriglia sharing, potremmo chiamarla così, che ha riscosso un immediato successo. Hanno installato per le vie del quartiere una sorta di cabina armadio ambulante, una cabina di legno, e l'hanno riempita di tutti gli oggetti in buono stato che non usavano più. L'idea è che tutti possono dare un'occhiata a quella che è stata ribattezzata Givebox e scegliere ciò che più piace, lasciando in cambio qualcos'altro. Ogni genere di merce è contemplato, dagli abiti agli accessori, dai detersivi alle piante, dagli oggetti per la casa al cibo e così via. Il continuo ricambio genera quindi un'offerta randomica che muta di giorno in giorno, ma attenzione, nessuno abusa dell'idea e trasforma la Givebox in una discarica di roba vecchia. Anzi, la qualità degli oggetti non è inferiore a quella di un comune negozio, e la cabina attrae folle di persone che passano anche solo per vedere cosa c'è di nuovo. La notorietà di Givebox è rimbalzata come prevedibile sui social network, tanto che in occasione di un unico atto vandalico, il popolo dei fan di Facebook si è subito prodigato per riparare i danni. Insomma, la curiosità generata dalla sua anima temporanea rende questo progetto un'efficace declinazione in versione baratto del concetto di pop-up store di cui abbiamo più volte parlato. Grazie Alessia. Patrizia, più che anticonsumismo, questo è il consumismo intelligente, sostengono Ru Rogers e Rachel Botsman, gli autori del saggio sull'economia condivisa che abbiamo citato in apertura, What's Mine is Yours. È questo il messaggio che sta passando? Certamente non possiamo più rubricare queste pratiche come fuori dal mondo, hippie, alternative, perché sono abitudini trasversali a tutte le classi sociali, fatte in nome della sostenibilità e del consumo responsabile. Se a questo aggiungiamo qualche dato, il pianeta ha risorse limitate, siamo nel post-crisi, le aspettative sono decrescenti, soprattutto tra i giovani, che cosa si può fare se non dividere più che moltiplicare, usare più che accumulare? I consumatori oggi possono diventare sell-sumers, ossia consumatori che rivendono ad altri ciò che hanno comprato e che possiedono. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. Resta solo il tempo per darvi appuntamento a domenica prossima dopo il GR delle 16. Come sempre, un saluto da Maria Luisa Pezzali.